Allora, riapre la stagione del Teatro degli Angeli dopo quello che si può definire un trauma, giusto? Un trauma, sì, si può definire anche qualcosa di più, è stato qualcosa di pesante, molto pesante da sopportare, ma appunto ripartiamo. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione 2019-2020? Dobbiamo aspettarci innanzitutto tantissima voglia di far capire che continuiamo, nel senso che il senso della rinascita è retorico, però è così. E dalla stagione dobbiamo aspettarci delle bellissime cose a livello proprio artistico. Noi, nonostante il piccolo spazio, abbiamo la possibilità e la fortuna di ospitare degli artisti notevoli. Abbiamo visto insieme, cioè, Giorgio Comaschi, Gemelli Ruggeri, la pneumatica Emiliano Romagnola, Eugenio Bortolini. Sicuramente dimentico tutti perché in questo momento ho il cervello un pochino così, e comunque sono spettacoli di teatro, di musica, perché il teatro ha un'acustica perfetta, si può suonare in acustico meravigliosamente, e di danza, anche se il posto è piccolo, di cabaret. Facciamo delle cose sicuramente sorprendenti per il posto, e quindi, ma sì, invitiamo la gente a venire, perché no? Assolutamente, Ambra. Perfetto. E quando è che riparte la stagione? Allora, la stagione riparte con l'inaugurazione il venerdì 13, cioè domani l'altro. Temo di dire che è tutto completamente strappieno, quindi sarà difficile per uno che lo impara adesso venire, però provateci, non si sa mai. E sarà una riedizione dello spettacolo che abbiamo fatto quest'estate nell'ambito di Bologna Estate, davanti all'oratorio, all'aperto. Sarà un'edizione un pochino più ridotta, però per consentire al maggior numero di gente possibile di partecipare, l'abbiamo fatta non al Teatro degli Angeli ma al Teatro San Salvatore, un teatro con cui collaboriamo tantissimo, con Eugenio Bortolini, che il direttore, per permettere un pochino a più gente di venire, tutto qua. E viceversa, ufficialmente noi apriremo il 21 di dicembre con il concerto di Natale, un concerto di Natale che mi fa piacere pubblicizzare, perché non è, per l'amor del cielo, il solito, nel senso buono, però non sono le solite musiche che siamo abituati a sentire per Natale, ma sono le musiche del nostro territorio, dell'Appennino, musiche a volte accompagnate da testi in bolognese, a volte però non è un ostacolo questo, anzi è un pregio, e suonata dalla pneumatica Emiliano Romagnola. Il 21 dicembre alle 21. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.